Flavio, resista. Forza. Sì, allora, sia uomo. Alle di torinesi, falsi e cortesi, però si dice che siamo. No, cortesi. E grazie di esserci, perché voi questa mattina capitate, come si dice, a fagiolo. A fagiolo, ecco. Viviamo tutte le domeniche. Tutto l'anno in bicicletta. Buongiorno, grazie per avermi dato la patrimoniale. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Si può, siamo liberi come l'aria, si può, siamo noi che facciamo la storia, si può, libertà obbligatoria. Nicoletta, se io ti dico l'aggettivo, non il sostantivo, volontario, tu cosa mi dici, a cosa mi riferisco? A qualcosa che io posso decidere di fare o di non voler fare, non mi sembra tanto complicato, ma se vuoi che sia più precisa, ti dico che è volontario ciò che viene fatto per libera scelta, tanto che volontariamente significa di propria spontanea volontà. Ma Deborah, adesso che sei a Roma, mi vuoi tendere qualche tranello, già vedo? No, a te no, però temo che probabilmente saranno preoccupate di essere cadute in un tranello tutte quelle famiglie, molte mamme e anche molti papà, perché le scuole stanno battendo cassa in questo periodo e stanno chiedendo anche un po' a forza il versamento del cosiddetto contributo volontario, una cifra che magari non è altissima ma che per molte famiglie può rappresentare comunque un sacrificio. Infatti arriva già subito un sms al 349-238-6666, lo stai leggendo anche tu, a Verona, certo. Il cosiddetto contributo volontario è di fatto obbligatorio, si paga con la banca convenzionata, se non lo fai non accettano l'iscrizione. Infatti ogni anno in questo periodo si riapre il dibattito, i contributi scolastici che sono deliberati dal consiglio di istituto in molte scuole diventano obbligatori perché vengono vincolati all'iscrizione, e come dimostrano anche le inchieste del sito scuola.net, e quindi di volontario resta un po' poco. Esatto, chiediamo allora qualche informazione su questa situazione perché le famiglie non sanno che fare, d'altronde tra volontario e obbligatorio c'è una bella differenza. Buongiorno e benvenuto a Daniele Grassucci, responsabile relazioni esterne di scuola.net, lo dobbiamo sempre ricordare, scuola con la K, così per tutti coloro che vogliono cercare il vostro sito lo sanno bene, è un portale di grande successo che è tornato proprio in queste settimane a dare battaglia contro questa prassi consolidata per molte scuole che chiedono alle famiglie degli studenti di aprire il portafoglio. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Eccoci. Siamo lontani oggi, Daniele? Ma... Da te sì, da Deborah sono vicinissimo. Bene, vedi, compensi, va bene. E allora, sul sito ci sono delle informazioni su questo tema, su scuola.net, Nicoletta. Certo. E ci sono andati appunto pesanti? Io direi sì, è questo che di cui volevamo, perché tu dici pesanti, molto pesanti direi. Avete pubblicato un vademecum intitolato Contributi scolastici, difendersi dalla truffa, difendersi dalle richieste indebite delle scuole e far valere i propri diritti. Daniele, spiegaci perché siete arrivati ad usare una parola così dura, truffa. Innanzitutto tu sai meglio di me che quando si fa un titolo bisogna andare giù duri, perché ecco, questo sono i vecchi trucchi del mestiere. No, scherzi a parte, parliamo di truffa perché in alcuni casi, come prima parlavamo di volontario, sull'etimologia, una truffa è un qualcosa che viene richiesto in maniera indebita o comunque al di fuori di quella che è la normativa. La normativa è molto chiara, nel senso che le famiglie possono contribuire al bilancio della scuola attraverso delle erogazioni liberali, quindi dei contributi volontarie che hanno delle finalità ben precise, che sono quelle dell'ampliamento dell'offerta didattica e formativa, un corso pomeridiano, una gita, magari il corso di inglese, insomma cose di questo tipo, oppure per l'edilizia scolastica, oppure per l'innovazione tecnologica, cioè se una famiglia vuole contribuire per rinnovare il parco computer della scuola lo può fare. Poi ci sono delle spese che invece sono obbligatorie, che le famiglie devono versare, e sono quelle ad esempio per le assicurazioni di responsabilità civile, per il libretto delle giustificazioni, per le pagelle che una volta si stampavano su carta, oggi ci sono dei software per gestire queste cose. Esatto, tutto online. Ecco, il problema è questo, che molte scuole fanno una richiesta omnicomprensiva, quindi non distinguendo la parte strettamente obbligatoria da quella invece volontaria, e quindi le famiglie si trovano a pagare senza conoscere esattamente che quel contributo è volontario oppure che una parte è volontaria e una parte è obbligatoria. Per questo parliamo di truffa. Poi siamo ben coscienti, e poi sicuramente ne parleremo dopo, certo, di come viene utilizzato, però ecco, le norme sono queste, e a mio avviso la scuola, che deve essere il primo posto dove il cittadino si forma e il rapporto con lo Stato, se c'è una legge quella deve essere rispettata. Mi pare un messaggio molto bello, molto chiaro. Allora Deborah, coinvolgiamo subito mamma e papà, certo, all'ascolto. Vi trovate in questa situazione, la scuola batte cassa, voi contestate, magari è stata ingaggiata una battaglia che non si sa come andrà a finire. Quanto vi chiede soprattutto la vostra scuola? Microfoni aperti per voi all'800 24 00 24. Stanno arrivando già tantissimi messaggi. Deborah, vogliamo leggerne qualcuno? Sì, guarda, adesso in questo momento, eccolo qua, sì, leggo subito l'ultimo perché mi piace l'incipit, che è un termine che a noi piace molto. Ciao belle fanciulle, nella scuola di mio figlio, ci racconta Paolo, si applica un razzismo al contrario. Noi italiani paghiamo 100, adesso non so esattamente cosa voglia dire, comunque quello che ci interessava era la cifra che Paolo paga appunto nella scuola di suo figlio. Mentre poi un altro ascoltatore, sì, ci scrive: definire il contributo volontario tassa di istituto è legale, Daniele? No, perché è un contributo volontario, la normativa lo impone in questo modo. Questo è uno dei tanti nomi che le scuole danno per nascondere la natura volontaria del contributo. La cosa ancora più grave è che in questo modo le famiglie non possono neanche detrarlo dalle tasse, perché la legge Bersani dice che si può detrarre nella misura del 19%, a patto che sia pagato tramite un bollettino, quindi una forma di pagamento tracciabile, e che ci sia proprio come dicitura la destinazione del contributo per le voci di cui parlavo prima, quindi l'edilizia scolastica, l'innovazione tecnologica e l'ampliamento dell'offerta formativa. Già con questa modalità la scuola si salverebbe da tante contestazioni, no? Invece non riescono neanche appunto ad adottare una modalità di pagamento che sia appunto chiara per i genitori. Ritornando un po' alla denominazione che tu hai dato a questa prassi, adesso a parte, come dire, i termini che si usano per attirare un po' giornalisticamente parlando, quindi truffe e abusi, in realtà sappiamo bene che questi contributi sono molto utili alle scuole, ce lo indicavi tu prima, perché grazie a questi si riescono a garantire ai ragazzi che frequentano la scuola tutta una serie di servizi. I presidi chiedono questo aiuto, non è che si intascano loro questo denaro, no? E allora perché vi fa tanto arrabbiare, Daniele, questa richiesta? Rimarchiamo un po' questo punto, e soprattutto in media a quanto ammonta questa cifra che indica Paolo, 100 euro? Sì, è allora corretta? Sì, allora è corretta, perché noi abbiamo visto, io considero dal 2010 ad oggi ho ricevuto qualcosa come 800 segnalazioni da parte delle famiglie di irregolarità a vario titolo, ho potuto anche farmi un'idea del listino. Ecco, quindi alle superiori è difficile andare sotto i 60 euro, ma ci sono anche punti di 200-250 euro tecnici e professionali. Alle medie viaggiamo intorno ai 30 euro. E noi abbiamo fatto una stima la scorsa settimana, che è stata pubblicata sul giornale La Stampa, e abbiamo visto che può valere un giro di richieste alle famiglie di circa 200 milioni di euro. Allora ecco, noi facciamo una duplice battaglia: da una parte verso la pubblica opinione, per far capire che la scuola pubblica sta diventando a pagamento, quindi dobbiamo essere coscienti del fatto che ormai il contributo è una prassi, serve alle scuole per chiudere il bilancio, quindi serve per garantire il servizio minimo essenziale, però a questo punto o lo togliamo e quindi questi 200 milioni di euro ce li mette lo Stato attraverso i fondi di funzionamento, oppure si fa una riforma, perché ecco, il contributo costa ad esempio 100 euro per tutti, dal figlio del libero professionista che magari ha un reddito da 100.000 euro l'anno, al figlio magari del disoccupato che ha un reddito pari a zero. Quindi assolutamente noi facciamo questa battaglia per un discorso di equità, cioè noi vogliamo che la scuola pubblica sia accessibile per tutti, quindi da una parte per la pubblica opinione, dall'altra perché ci sono dei presidi che però non si comportano secondo le leggi. Ecco, senti, ma a proposito di questo, prima di andare al prossimo ospite, in realtà la Rosa ha anche delle conseguenze che pagano i genitori che non versano questo contributo, un po' per questioni di principio, ma anche perché magari può capitare che in questo mese questi 100 euro non ci sono. Quali sono? In alcuni casi sono quelli contro i quali noi ci scagliamo. Si minaccia di non iscrivere i figli, cosa non possibile, il ministero lo ha ribadito più e più volte, e anche il vostro ospite, insomma il rappresentante dei presidi, insomma, con cui parleremo, sicuramente confermerà questo. Ma ci sono delle cose assurde, ad esempio un ragazzo è stato detto che se in mancanza del pagamento del contributo avrebbe potuto solamente guardare i laboratori mattutini, cioè non avrebbe potuto partecipare. Salva Danaio. Luigi. Vai! E io pago! E io pago! E i genitori pagano. A Verona, scuola elementare, tassa di iscrizione da pagare obbligatoriamente all'iscrizione, 45 euro primo figlio, 50% in meno altri figli, ci scrive Silvia. Noi vogliamo però sentire anche i diretti interessati, quelli che sono accusati di voler a tutti i costi quei soldi, esercitando forse una pressione eccessiva, i presidi. E allora Cuore Denari ne ha convocato uno, ci siamo tolti, Deborah, questa soddisfazione. Esatto. Siamo stati ai tempi belli oggi. Nostri convocati noi dai presidi, adesso finalmente, e che preside abbiamo in linea con noi Giorgio Rembado, presidente Associazione Nazionale Preside. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Preside Rembado. Tra Preside. L'altro oggi già molto presente anche sulla stampa nazionale, perché ha avuto un'intervista anche da parte di Repubblica sul tema della sicurezza delle nostre strutture scolastiche in Italia. Nicoletta. Sì, e infatti poi mi piacerebbe proprio tornare sull'intervista del Preside che riferiva dell'autonomia scolastica. Ma Preside, tra volontari e obbligatori, lei che è Preside mi insegna che c'è un po' di differenza. Come risponde alle critiche mosse da Scuolanet? Allora, nessuno mette in discussione l'impostazione complessiva, e cioè il fatto che si tratta di contributi e non di tasse, prima di tutto, e che non ci siano vincoli di alcun genere, perché si tratta di donazioni liberali. Sono donazioni liberali che passano attraverso un filtro, tra l'altro, ulteriore, che è quello di una valutazione da parte del Consiglio di Istituto, dove naturalmente ci sono, come tutti sanno, le rappresentanze dei genitori e degli studenti. E in quell'ambito si definisce un importo, si è parlato prima di 100 euro all'anno. Ci tengo a sottolineare una cosa, ma questo per far giustizia anche delle amplificazioni o delle esagerazioni. La scuola pubblica non è a pagamento e non lo diventa neppure se ci fosse il contributo erogato dalla maggioranza dei genitori nella misura di 50, 100, 150 euro. Ricordiamoci che il costo alunno nella scuola secondaria superiore è intorno agli 8-9 mila euro all'anno, sostenuti interamente dalla fiscalità generale. Questo per fare chiarezza e per onestà intellettuale. Come rifiuto totalmente il termine truffa, perché qui non si parla assolutamente di truffe. Se ci sono delle indebite pressioni, passiamo a questo aspetto del problema, i genitori hanno tutta la possibilità di reagire e agire correttamente e realmente e sostenere e dire che non hanno, senza motivazione alcuna, non debbono motivare, possono semplicemente dire che non sono disponibili ad erogare il contributo definito e determinato dal Consiglio di Istituto. Quindi questi sono i termini della questione. Allora adesso Preside ci racconterà anche però una volta che magari una famiglia, come dire, sborsa volentieri questo denaro, come vengono utilizzati questi soldi e se c'è anche un utilizzo che poi è totalmente trasparente nei confronti della famiglia, se la famiglia viene correttamente, adeguatamente informata sull'uso che si fa di questo denaro. Le faccio sentire però intanto, Nicoletta, se sei d'accordo, qualche ascoltatore. C'è Salvatore dalla provincia di Piacenza. E che poi Antonio da Treviso. Un preside, tra l'altro, vero? Se non leggo male. Salvatore, buongiorno. Lei buongiorno ha il bollettino fresco fresco? Allora, fresco fresco, mezz'oretta fa, ho pagato un bollettino di 130 euro per il primo liceo artistico. Poi ho pagato, c'è un altro bollettino che non lo voglio pagare, non mi interessa, perché di altri 15 euro. Perché c'è scritto nella lettera che è arrivata nei giorni scorsi per aiutare le famiglie disagiate. Ora io dico al non abbiamo capito, non ho capito, per? Allora, per le famiglie disagiate, quindi c'è un contributo di 130 euro che ho pagato mezz'oretta fa, più un altro contributo di altri 15 euro per aiutare le famiglie disagiate. Ho capito, come se voi dovessi fare. È possibile? Non è possibile continuare a pagare? È obbligatorio? Non è obbligatorio, perché qua è un pagamento continuo. Salvatore, la ringrazio e credo che la sua stessa domanda se la stiano facendo adesso molte altre famiglie. Preside Rembado, cosa rispondiamo a Salvatore? 130 euro, quindi in questo caso alziamo anche un pochino la media. Salvatore, ha il diritto di essere informato come questo liceo utilizzerà questi soldi? Ma non c'è dubbio. E le scuole italiane hanno il dovere di rendicontare. nell'ambito non solo della rendicontazione sociale, ma in questo caso anche nell'ambito di una rendicontazione da dare a coloro che hanno fatto una donazione all'istituto. La questione, si diceva prima un'altra cosa che mi è sfuggita e che vorrei riprendere se abbiamo un minuto ancora. Certo. Qualcuno diceva, e su questo io sono perfettamente d'accordo, lo Stato deve contribuire di più a finanziare gli istituti scolastici, non c'è dubbio. Su questo non ci piove. È la grande promessa del nuovo premier, tra l'altro, no? E speriamo che queste promesse di vederle spesso presto e continuativamente realizzate, perché è evidente che siamo arrivati a una soglia di non ritorno. Però è anche vero che io sono convinto invece dell'opportunità di lasciare la possibilità alle famiglie di dare donazioni liberali, perché questo è un modo di un maggiore, sia pure in un rapporto minimale, dicevamo prima 100 a 8.000, è un modo per un coinvolgimento maggiore delle famiglie nelle scelte anche dell'istituto, perché questi 100 euro sono spesso finalizzati a priori da parte del consiglio d'istituto, che so io, per il miglioramento di un laboratorio linguistico, informatico, tecnico, quello che sia, e quindi è opportuno che ci sia non solo questa contribuzione volontaria, ma anche la necessità ovviamente da parte della scuola di darne conto. Di darne conto e rendicontare. Sì, però leggendo i messaggi dei nostri ascoltatori, i genitori ci dicono che insomma, se non pagano il contributo l'iscrizione non parte, e questo li fa un po' arrabbiare. Che cosa possono fare? Ecco, ma lei diceva si può dire io non pago questo contributo, ma se poi la scuola minaccia in qualche modo di non iscriverci il bambino? Allora, se la scuola fa questo è assolutamente dalla parte del torto, e va detto con estrema chiarezza e in termini molto, molto netti, perché non deve nascere un conflitto né su questo né su altro, ma meno che meno su questo, tra i genitori e la direzione dell'istituto, tra i genitori e la scuola o la sua segreteria. Quindi basta che il genitore nella consapevolezza del problema si rivolga alla segreteria della scuola per dire che non intende erogare la donazione prevista dal consiglio d'istituto, e l'iscrizione va avanti comunque, va avanti lo stesso, senza nessun cambiamento così. E senza diciamo nessuna ritorsione. Sono io che ora uso volutamente un termine. Molto forte. Preside, la faccio prego, incontrare con un suo collega Antonio, ci chiama da Treviso, e preside, ha chiamato l'800 24 00 24. Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Siamo sì, qua. Ci siamo. Signor preside, siamo qua. Mi scusi, io non sono preside, ma sono presidente di un consiglio d'istituto di un liceo. Ah, bene. Volevo fare tre punti se il tempo me lo consente, sarò velocissimo su due e lungherò un po' di più. Il presidente Rembado, se ho segnato bene il nome, dice sì, il consiglio d'istituto regola la faccenda dei contributi scolastici. Nel 2012 facevo parte di un consiglio di circolo, riunione fatta a febbraio, dove si approvava il contributo volontario, e il mese successivo, due mesi dopo, ad aprile, veniva a conoscenza del decreto ministeriale di marzo 2012. Antonio, se i suoi punti brevi sono questi, noi tra un po' abbiamo le borse e dobbiamo interrompere. Deve proprio velocizzare. Sia sintetico, faccia il presidente d'istituto, rapido. Sì. Sì, stasera parleremo di contributo volontario nel Consiglio d'Istituto, citerò il decreto ministeriale del 2012 e del 2013, li citerò tutti e due. Infine leggo un regolamento e ho finito, una parte del contributo scolastico, è stato approvato questo regolamento il 23 gennaio di quest'anno, per sostenere l'offerta formativa della scuola. Il consiglio d'istituto definisce annualmente un contributo volontario per sostenere l'offerta formativa. Ma non era per sostenere l'ampliamento dell'offerta formativa? Però qui stiamo facendo, come dire, un ragionamento, credo, su poche differenze di linguaggio. Adesso, Antonio, mi pare che comunque in questo caso la scuola, se non ho capito male, Nicoletta, tu cosa ne pensi? Abbia motivato comunque. Certo, mi sembra di sì. Signor preside, il dottor Rembado, che dice prima di andare ai mercati? Ah, guardi, io non faccio il leculeio e quindi sono d'accordo con loro quando dicono che tra ampliamento dell'offerta e sostegno dell'offerta probabilmente ci sono nuance di linguaggio che mi sfuggono. Va bene. Lo dico con un po' di ironia, naturalmente. Certo. Perché questo è il paese in cui i legalitari sfondano e bloccano l'avanzare del nostro paese, quindi su questo non mi faccio coinvolgere. Grazie, Preside, grazie, torni a trovarci, la ringraziamo per essere stato con noi e le auguriamo una buonissima giornata. A presto, grazie. A tutti. Intanto, tra l'altro, volevo segnalare, Nicoletta, che per tutte le famiglie che comunque ancora vogliono raccontarci di questa prassi, se non paghi non ti iscriviamo, possono scrivere a Daniele Grassucci, a scuola.net. Daniele, così continui a raccogliere questa statistica, nutrirla ulteriormente, l'anno prossimo torneremo a contestarla al preside Rembado. Che ne dici, Nicoletta? Sì, assolutamente. Insomma, Daniele dà questo contributo, anche noi a Cuore Denari ne diamo un altro, ai genitori all'ascolto, in modo particolare ai genitori di bambini che frequentano i primi anni della scuola primaria, che dimostrano, come abbiamo detto in apertura, di avere un po' di difficoltà nel leggere, scrivere, fare di conto. Si chiamano disturbi specifici dell'apprendimento. Attenzione, non hanno nulla, e lo sottolineo, a che fare col quoziente intellettivo, però vanno individuate precocemente per dare al bambino la possibilità di apprendere con meno fatica, diciamo così. In linea con noi ci sarà tra poco il professor Giacomo Stella, quindi iniziate a prenotarvi al nostro numero verde. Il professor Stella, che è presidente dell'Associazione Italiana Dislessia e oltre che essere psicologo clinico, ci darà una mano per riconoscere che cosa si nasconde dietro a quella fatica che molti bambini fanno. L'abbiamo fatta tutta, alcune fanno un pochino più fatica degli altri. Andiamo a vederci chiaro. Cuore e denari. Ci dicevano, insistevano di studiare, che da grandi ci sarebbe stato utile sapere le cose che a scuola andavamo a imparare, che un giorno avremmo dovuto anche lavorare. Eccoci, siamo tornati, siamo a febbraio, tempo di iscrizione. Apro una breve parentesi per ricordarvi che sul sito di Radio 24 è possibile riascoltare lo speciale iscrizioni che abbiamo realizzato il 27 gennaio. Ci sono tanti consigli e quindi andatevelo a riascoltare. Dicevo, quindi tempo di iscrizioni e naturalmente anche tempo di polemiche. Anche quest'anno al Ministero dell'Istruzione sono sempre di più le segnalazioni di istituti che pretendono contributi che dovrebbero essere volontari ma in realtà sono obbligatori. Daniele Grassucci di scuola.net, immagino che abbiate ricevuto anche voi tante segnalazioni e avete anche fatto un'inchiesta. Ce la vuoi raccontare? Sì, innanzitutto io vorrei precisare una cosa: noi non siamo contro i presidi, anzi il presidente Rembado ci invitano anche alla cena dell'associazione presidi, bene, quindi vero. A Natale siamo stati con loro. In realtà anche noi, Mario Rosconi, il nostro grande amico, assolutamente, il mio preside del liceo, quindi ecco, insomma, l'abbiamo invitato tante volte. Non siamo i nemici dei presidi, anzi combattiamo per uno scopo comune, che è quello di migliorare la scuola, far capire che sulla scuola bisogna investire, che questo investimento non deve ricadere sulle famiglie ma deve ricadere sullo Stato, perché poi tutto ciò che investiamo in risorse umane, come ha detto Renzi, ma lo dice anche l'Ox, insomma è normale, poi ci ritornerà in sviluppo. Ecco, però ritornando all'inchiesta, noi quest'anno abbiamo avuto un boom di segnalazioni, nel senso che in meno di 12 mesi ne abbiamo raccolte oltre 200 e posso dire che da quando è uscito l'articolo sulla stampa, quindi una settimana fa, ne ho raccolto un altro centinaio, quindi molte famiglie che denunciano il fatto che i contributi non vengono richiesti come volontari ma vengono richiesti come obbligatori. La cosa più grave, ed è quella contro la quale ci scagliamo, appunto, sono gli episodi di minaccia alle famiglie. Ecco, io prima citavo il caso di uno studente che ad esempio non può partecipare se non paga ai laboratori che si svolgono durante le ore di lezione. Quindi voi vi immaginate una classe in cui ci sono 18 persone che hanno pagato e una persona che non ha pagato e quella persona che non può partecipare, certo, fisicamente all'esercitazione. Parlavi prima, Daniele, di ricaduta all'interno anche dell'ambito familiare. Nicoletta, io gli farei sentire quello che vuole raccontarci Mario dalla provincia d'Alessandria, perché ci vuole, brava, raccontare di una discussione avuta proprio con sua figlia. Mario, buongiorno. Buongiorno, saluto tutti, vi ringrazio. sono Mario da Casale Monferrato, ho 55 anni, tra l'altro oggi parlate di me perché sono anche un dislessico grave, gravissimo. Ah, Mario, rimanga con noi. Dopo assolutamente, intrecciamoci, avvinghiamoci. Per il contributo che ho pagato di 130 euro e la consapevolezza più grande l'ho avuta con mia figlia, la discussione, nel senso che volevo capire cosa lei ha percepito di questo contributo, perché poi alla fine io non discuto con la scuola, ma ho dovuto discutere con lei. Lei mi dice che se non pagavo non avevano tanti altri servizi e robe del genere. Alla fine sono i soldi, secondo me, più ben spesi, perché in ogni caso, fra tutte le tasse che dobbiamo pagare, io sono libero professionista, quelle vanno direttamente alla scuola, lì possiamo verificare se vanno direttamente all'istruzione di mia figlia, che è il primo anno di liceo linguistico, e quindi credo che alla fine siano quelli più ben spesi fra tutti quelli che ci passano. E va bene, Mario, giustamente l'investimento nella scuola anche a 360 gradi, come nel caso in cui stiamo parlando questa mattina, è chiaro che è quello sempre più, no? Nicoletta, redditizio, immaginiamo, però ci sono anche mesi in cui certe famiglie queste difficoltà economiche ce l'hanno, si stanno molto amplificando negli ultimi anni. E poi sai, ci sono famiglie, Deborah, che hanno anche più figli, perché sai, magari ci sono famiglie, lo sappiamo, che hanno 3 o 4 figli. Esatto, una alle medie, una alla materna, magari 2 alle scuole superiori, e qua ci sono dei mesi che sono ben impegnativi, no? Andiamo a sentire Rita da Salerno, perché Rita. Buongiorno. A proposito di complimenti per la trasmissione. Grazie Rita, lei è molto gentile e ci fa molto piacere. Che ci dice? Niente, volevo chiederle, siccome io ho iscritto mia figlia al liceo classico, mi hanno chiesto un contributo di 100 euro. Mm-hmm. Ora la mia domanda era questa: lo devo pagare a breve scadenza oppure mi posso anche allungare, pagarlo tipo, non so, gli inizi di settembre? Ha chiesto questa disponibilità? Ha chiesto questa disponibilità alla scuola, Rita? Io avevo chiesto, mi è stato detto no signora, paghi entro il 28 febbraio, però io siccome non ne sono convinta, volevo chiedere appunto a voi. Grazie Rita. Sentiamo Daniele Grassucci, abbiamo ampliato la rosa dei casi, no? Di quello che contesta la scuola quando, qua, in questo caso Rita vuole pagare, magari non ce la fa adesso, posso rinviarlo? Sì, allora la legge è assolutamente dalla sua parte, perché di quel contributo solo una parte è obbligatoria, quindi io quello che consiglio è di scrivere alla scuola una lettera, visto che il colloquio in un primo momento ha fallito, nella quale richiede di pagare solamente la parte obbligatoria del contributo, cioè la parte relativa ai rimborsi spese, e si riserva di saldare il resto quando ne avrà la possibilità, essendo volontario la legge glielo permette. Senti, dacci un vademecum su come ci si deve comportare quando la scuola è così drastica e ci dice o paghi o non ti consentiamo l'iscrizione al prossimo anno scolastico di tuo figlio. Ma come dobbiamo fare? Dobbiamo portare un documento di legge che dica che in realtà la scuola non ha il diritto di contestarci questo, di prendere una posizione così dura? Ma come sempre il dialogo è sicuramente la prima strada, quindi io consiglio alle famiglie di andare nella scuola, prima di tutto in segreto. Poi se la segreteria non dà risposte, di chiedere un colloquio col dirigente scolastico e poi ecco dal dirigente scolastico portare i documenti, le circolari ministeriali che si possono trovare anche su scuola.net, noi le abbiamo raccolte proprio per utilità dei genitori, quindi cercando su scuola.net contributi scolastici ci sono queste circolari, l'ultima data ecco, di meno di un anno fa, dell'ex direttore generale Stellacci, che dice proprio che i contributi sono volontari, quindi in base a questo intavolare un dialogo. Noi quello che ti ricordi, un anno fa avevamo avuto anche in onda con noi a Salvadanaio, ci aveva dato le stesse istruzioni, ma a quanto pare appunto le scuole non riescono proprio ad adeguarsi. Sì, infatti il problema a mio avviso è questo, c'è un problema strutturale, le scuole hanno bisogno di questi fondi, anche perché ricordiamo il governo Gelmini addirittura tagliò i fondi di funzionamento, adesso piano piano li stanno ripristinando, però ci furono 2 anni, 2007-2008, in cui questi furono azzerati, e da lì che è nata poi questa penuria di risorse, quindi sicuramente è un problema che va gestito a livello centrale. Il ministero dice giustamente sono volontari, le scuole dicono io ho bisogno di questi soldi per fare i corsi. Alla fine poi pagano le famiglie. E certo, in mezzo ci sono i genitori, Nicoletta. Eh sì, a proposito di genitori, abbiamo in linea con noi Fabrizio Azzolini, che è il presidente dell'AGE, Associazione Genitori Onlus, che insomma è un'associazione che li rappresenta. Buongiorno presidente. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai vostri ospiti. Eccoci. Presidente, lei li ha pagati quest'anno? Si è sentito obbligato o li ha pagati volontariamente? io non ho più figli a scuola, e questo lo devo dire, e la questione è molto semplice. Lo sentivo prima dagli intervistati, il contributo è un contributo volontario. La scuola ha delle difficoltà, perché non dobbiamo nasconderci dietro un dito, la scuola ha delle difficoltà. Sì. Il consiglio d'istituto prende atto di queste difficoltà e può indicare una somma da comunicare ai genitori, però è un contributo che viene versato dai genitori in via volontaria, ed essendo questo volontario possiamo dire, possiamo al genitore comunque farci portatori, che sono praticamente contributi che servono per il buon funzionamento della scuola per gli studenti, ma anche capire che quando ci sono delle difficoltà di certe famiglie, che vanno provate, perché certe difficoltà, noi sappiamo che certe famiglie, io sono stato presidente di istituto per tanti anni, c'è gente anche che ne approfitta, ma provata la cosa si deve portare all'attenzione del dirigente del consiglio d'istituto, il quale consiglio d'istituto può anche dire, può anche verificare uno eventualmente un pagamento a rate, come può anche vedere la possibilità di non far pagare determinati contributi a certe famiglie. Questa potrebbe essere una bella battaglia da fare in sede AGE, no, presidente Azzolini? Magari ma di comune intesa con i presidi, che ne pensa? Siamo disponibili a farlo. Diciamo una cosa, noi amiamo molto il dialogo con la scuola, perciò ad un certo punto noi non ci sentiamo il sindacato dei genitori, noi ci sentiamo di essere un'associazione che raccoglie le istanze dei genitori, e possono tranquillamente mandarcelo, anche scrivere al sottoscritto, che non c'è nessun problema, la mia mail gliela do a tutti, che possono anche scrivermi, che è presidente@age.it. Ecco, noi ci sentiamo di essere coloro che intermediano tra la massa dei nostri genitori e la scuola in senso generale. Siamo presenti al FONAX, che è il forum delle associazioni genitoriali presso il Ministero dell'Istruzione, pertanto siamo rappresentativi delle istanze dei genitori. Certo. Insomma, Daniele Grassucci di scuola.net, fatevi amici, no? Con l'AGE, come intanto, si dice, create delle alleanze. Esatto, delle joint venture, lo diciamo alla modalità finanziaria. Nicoletta, tra l'altro, ho già subito un lavoro per Daniele, perché adesso noi dobbiamo salutarlo perché andiamo avanti con il resto del nostro programma, ma ci sono tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo su Facebook e lui adesso si mette qui vicino a me a rispondere a tutti, anche per avere una descrizione magari più precisa sulle modalità con cui si può contestare alla scuola se la scuola ti dice: se non paghi questo contributo non ti facciamo fare l'iscrizione. Va bene? Mi piace molto, Daniele, perché Daniele, Deborah ti mette vicino a lei, che così ti controlla, e se alzi e se ti distrai, bacchetta. Bacchetto, come a scuola naturalmente. Cuore e denari. La lettura fa di un uomo un essere compiuto. Bacone. Insomma, leggere, è vero, si impara, ma si fa fatica. L'impegno serve, ma da solo in qualche caso non basta. Torniamo indietro nel tempo, ai nostri primi anni di scuola, prima, seconda elementare, l'alfabeto, le parole scritte sulla lavagna. Pensavo ai tempi addietro, a quando ero bambino, felice e spensierato, io correvo nel giardino, giocavo come gli altri, non c'erano differenze, e neanche adulti stupidi che sputano sentenze. Ormai grandicello, secondo me ci marcia, ed altre battute che ti lasciano la traccia, perché io sono stufo di inutili allusioni, non credere sia facile non essere tra i buoni. La canzone canzone Don't Shoot Me è scritta appositamente per il piccolo coro Santa Maria Ausiliatrice da Fabio Macchioni e Massimo Marchetti. È tratta dal CD che Confusione è un progetto nato nel 2008 dalla consapevolezza di dover far qualcosa per porre all'attenzione di tutti, soprattutto a insegnanti e genitori, al problema della dislessia. Potete richiedere direttamente il CD scrivendo a info@magiadinote.it. Di dislessia parleremo nel corso, nella seconda parte della trasmissione di Cuore Denari, vero Deborah? Certamente, perché è un tema che è a cuore di molte famiglie, soprattutto di coloro che non riescono ad avere, quando questo problema si manifesta, non ne riescono ad avere subito un'immediata percezione, no? Assolutamente, allora il contributo di Cuore Denari oggi, una puntata in cui parliamo di contributi volontari che diventano obbligatori, è appunto quello di dare ai genitori all'ascolto delle informazioni per capire che cosa si può nascondere dietro una fatica del proprio figlio ad apprendere. D'altronde Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Thomas Edison, pensate che uno faceva errori di ortografia, l'altro non parlò fino ai 3 anni ed Edison leggeva con fatica tanto che non poté frequentare la scuola. Hai capito? Ecco, però ci sono bambini. Chissà quanti non ne sappiamo. Ecco, magari. Però ci sono tanti bambini che hanno forti difficoltà nella lettura, le parole sono grovigli, riconoscere le lettere per loro una grande fatica e i risultati anche di fronte a tanto impegno non sono incoraggianti. Molto spesso gli insegnanti dicono ai genitori, me lo state già scrivendo al 349-238-6666, il bambino è svogliato, pigro e non si applica. Quindi se avete un bambino che ha difficoltà a scuola, magari particolarmente svantaggiato, potete cominciare a chiamarci, ma chiamateci anche se, come anticipato il nostro ascoltatore di Casale Monferrato, la vostra carriera scolastica è stata particolarmente faticosa. Mario ci ha detto: io sono un dislessico, e quindi raccontateci la vostra fatica. Un tempo la dislessia non veniva diagnosticata e le fatiche ce l'hanno segnato il nostro percorso scolastico e non solo. Oggi abbiamo il piacere di avere in linea con noi il professor Giacomo Stella, professore di psicologia clinica all'Università di Modena e Reggio Emilia e fondatore dell'Associazione Italiana Dislessia. Professore, sono molto felice di averla in linea a Cuore Denari. Sì, buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti. Ci siamo. Apprendere è un'attività impegnativa e faticosa. In quanto tempo mediamente un bambino impara a leggere e a scrivere correttamente? In realtà entro la prima elementare gran parte del processo per l'italiano, che è un'ortografia molto regolare, siamo molto fortunati da questo punto di vista, entro la prima elementare buona parte è appresa. In ogni caso alla fine della seconda elementare abbiamo dati che mostrano che i bambini sono più rapidi nel leggere una parola che nel denominare una figura, quindi la capacità di leggere, come diceva un neurologo famoso, supera la capacità di riconoscere le figure. Anche se nel giro di 2 anni, solo di 2 anni. Ah, poco, 24 mesi. Anche 24. Se leggere è un'arte recente, no? Perché l'uomo si è inventato 6.000 anni fa, non di più. E certo. Il nostro cervello un po' si è dovuto adattare a fare qualcosa che non era, per cui non era programmato, se vogliamo dire così, per fare. E insomma abbiamo dovuto attivare quello che viene chiamato il cervello che legge. È così, sì, professore? Sì, è così. Abbiamo un'area particolare che si chiama appunto area visiva della forma delle parole, che qualche migliaio di anni fa era deputata ad altri compiti, per esempio a riconoscere tracce sul terreno e radici. Oggi nel corso dei millenni c'è stato quello che viene chiamato un riciclaggio neuronale, cioè quelle aree corticali oggi non ci consentono più di essere così abili nel riconoscimento di tracce, ma ci fanno diventare abilissimi nel riconoscimento della forma visiva delle parole, ed è così per tante altre aree ovviamente. Quindi l'evoluzione porta l'uomo, che ha una grandissima capacità di adattamento, a cambiare, diciamo, funzione dei suoi neuroni e delle sue reti neurali. Stiamo parlando di una fascia d'età dei bambini che mi attrae molto, come tu sai, Nicoletta, perché tutte le volte che si parla di bambini a questa età io mi intrufolo sempre nella conversazione, emerge la zia che c'è in me. E allora, professor Stella, mi stavo chiedendo, no? Leggere ai bambini le favole quando ancora non vanno a scuola, anche se io purtroppo con i miei nipoti l'ho fatto poco e mi pento, ma magari recupererò, aiuta ad attivare il cervello che legge, questo cervello che legge che lei ha citato poco fa? Sì, aiuta ad attivare le componenti linguistiche, e siccome le componenti linguistiche entrano anche nel processo di lettura, questo è molto importante. Il processo di lettura ha bisogno anche di capacità viso-attentive, quindi non si attiva solo attraverso l'esposizione al linguaggio, però teniamo conto che nella lettura sono altrettanto importanti sia il linguaggio che le capacità visuo-percettive, ecco, e di attenzione. Professor Stella, dopo il GR, intanto invito gli ascoltatori a prenotare le loro chiamate, ci soffermeremo sui disturbi specifici dell'apprendimento che possono riguardare la lettura, ma anche la scrittura e i calcoli. Ma ci vuole fare un esempio, soprattutto ci aiuta a capire come possiamo capire se dietro alle difficoltà del nostro bambino c'è un disturbo specifico dell'apprendimento? Certo, fin dalle prime fasi dell'acquisizione a scuola, cioè già in prima elementare, i bambini che persistono nel non riconoscere le lettere oppure nello scambiare lettere che sono sì simili ma in realtà anche diverse fra di loro, come la A scritta in stampato minuscolo oppure la E, confondono la A con la E. Oppure ancora bambini che non riescono a imparare a scrivere il loro nome, che non lo scrivono qualche volta posponendo delle lettere o qualche volta omettendo delle lettere. Oppure ancora nel campo del calcolo, in prima elementare, i bambini che fanno difficoltà a contare oltre il 10, ma fino al 20 semplicemente, a enumerare, dire i numeri fino al 20, o che hanno delle difficoltà a contare all'indietro dal 10 fino al 0. Questo non vuol dire che se uno ha un bambino che non fa queste cose ha certamente un disturbo specifico di apprendimento, ma vuol dire che quando sono presenti questi comportamenti è meglio aumentare molto l'attenzione, avviare processi di rinforzo e di potenziamento, e se i problemi persistono vuol dire che è necessario rivolgersi a qualche specialista per avere lumi e conforto. Oggi si può fare e cercheremo di capire come e quali assistenze possono avere i bambini a cui è stata fatta una diagnosi di dislessia, diagnosi che ai tempi nostri, Deborah, non veniva fatta. Yolanda, no, dalla provincia, certo, di Belluno. Ma noi scrivevamo sulla pietra, tanto è passato il tempo che... Per cui non avevamo... Yolanda, buongiorno, ha esatto. Un minuto per raccontare la sua esperienza. Buongiorno, intanto saluto il professor Stella che stimo moltissimo. Niente, in breve, mia figlia è dislessica di grado severo, però è stata certificata solamente a fine della prima media, quando appunto è stata bocciata, grazie all'altra mia figlia che ha letto su Wikipedia cos'era la dislessia. In quanto alle elementari praticamente nessuno se ne è mai accorto, noi chiaramente come famiglia la parola dislessia non sapevamo neanche che esistesse, e niente, è stato praticamente alla prima media è stato un disastro, nel senso che i professori comunque l'hanno tartassata, quindi diciamo che alle medie era in pluriclasse, quindi pochi bambini, seguita molto bene, e forse la cosa lì non era emersa. Però... Questo oggi è possibile fare diagnosi di dislessia, c'è una maggiore informazione, ma questo è il contributo di Cuore Denari che vuole dare agli ascoltatori, quindi chiamateci, abbiamo in linea il massimo esperto di dislessia, il professor Stella, che resta con noi sino al termine della puntata. Adesso il GR e poi torniamo di nuovo insieme. Cuore e Denari. Eccoci ritrovate in diretta da Deborah Rosciani. Sì. Ti manco? Mi sento un po' spaesata senza di te, anche se qui a Roma mi stanno coccolando tantissimo. Tu lo sai che quando facciamo questo trasferimento di studio le coccole non ci mancano. Però... Voglio sapere se Daniele Grassucci è lì al lavoro. No, è andato, però ha risposto a tutti. tutti gli ascoltatori su Facebook e ha promesso che continuerà a farlo, a monitorare il nostro profilo sul social network per tutta la giornata, a rispondere agli ascoltatori che si lamentano di questo contributo scolastico. E ci sono tanti ascoltatori che si stanno mettendo in contatto con noi per chiedere al professor Stella, che è in linea con noi e sarà con noi fino al termine della puntata, delle spiegazioni su cose che non tornano, su una certa fatica che i loro figli dimostrano nell'affrontare i compiti quotidiani. Siamo tra la prima e la seconda elementare. Professor Stella, vorrei dare la parola subito a Michela, che ci chiama da Firenze, e poi tornare con lei a sottolineare un concetto a cui io tengo molto, ma soprattutto so che su cui lei torna spesso, che la dislessia non si accompagna a deficit intellettivi, non ha niente a che fare con l'intelligenza. Ma Michela da Firenze, sentiamo che cosa ci racconta. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, allora, le racconto in breve. Mio figlio è entrato in prima elementare a settembre, è iniziato la scuola tranquillamente e, diciamo, dopo le vacanze di Natale la maestra ci ha chiamato perché già vedeva, aveva problemi soprattutto nei dettati, nel riportare le parole. Sì. E ci ha detto che secondo lei questo bambino aveva problemi di lettoscrittura e ci ha indirizzato all'associazione, però alle scuole medie, che è l'associazione, appunto, uno sportello d'associazione della dislessia italiana. Sì. Al che mi hanno detto, appunto, che secondo loro il bambino era troppo piccolo, cioè io ci ho parlato solamente per telefono, sì, però con le bidelle della scuola, perché dice qui accettano sono bambini più grandi. E quindi niente, cioè io gli ho riportato alla maestra, quella di italiano mi ha detto che secondo lei c'era questi problemi, mentre le altre mi hanno detto che assolutamente bisogna vedere. Insomma, però mi sembrano, Michela, delle informazioni un po' confuse, un po' che l'hanno lasciato un po' lì. Chiediamo al professor Stella. Professore. Sì, indubbiamente il fatto che un bambino abbia delle difficoltà a imparare la scrittura può essere un segnale, cioè nel senso che, perché dico può, perché ci sono anche bambini più lenti, no? Certo. Come dire, noi sappiamo che tutti i bambini cominciano a camminare a 12 mesi, ma se uno comincia a 14 non è un dramma, poi se non ci sono problemi. Quindi è chiaro che la maestra ha ragione, perché è giusto osservare lo sviluppo, la velocità di risposta agli stimoli, diciamo, e quindi all'insegnamento in questo caso. Sì. Quindi la maestra ha ragione, ma non che si possa fare una diagnosi in prima elementare, perché altrimenti confondiamo i tempi di apprendimento dei bambini con i deficit che invece ci sono nella dislessia, nella disortografia. Quindi il suo bambino probabilmente ha bisogno di ricevere un potenziamento o nella scuola stessa, come stiamo cercando di fare come associazione, oppure da una logopedista se ha dei problemi. Ma un potenziamento senza fare diagnosi. Non è necessario che ci sia una diagnosi per potenziare, per aiutare un bambino. È chiaro che le informazioni, quando io lavoro con un bambino di prima elementare, se lui non mi dà le risposte anche in una situazione di diciamo stimoli specifici, allora ho degli elementi in più per sospettare, ma se si ottengono ottime risposte vuol dire che aveva solo bisogno di più aiuto. Essere e benessere. Il mio PC sul banco mi serve per vedere, è come i tuoi occhiali, ma perché non vuoi capire? Risolvere i problemi può essere banale, ma i calcoli a memoria proprio non li posso fare. Per ultimo l'inglese, e questo è proprio dura, parlarlo è complicato sì, ma leggerlo è tortura. Caro maestro, esimio professore, combatti l'ignoranza, te lo chiedo con il cuore, se proprio non capisci qual è. E stiamo riascoltando la canzone Don't Shoot Me, scritta appositamente per il piccolo coro Santa Maria Ausilia da Fabio Macchioni e Massimo Marchetti. Potete richiederla il CD scrivendo a info@ approccia la magia di note è uno sforzo per sensibilizzare, per parlare di dislessia. Tra l'altro, professor Stella, anche fare i calcoli, mandare a memoria quindi anche l'inglese, sono dei segnali e sono, che possono così evidenziare una certa difficoltà, un problema ai genitori, ma sono delle grandi fatiche per i ragazzi che non hanno nulla, ma la dislessia e i disturbi specifici di apprendimento, lo ricordiamo, non hanno nulla a che fare con l'intelligenza. Assolutamente no, nel senso che la lettura è un processo, soprattutto la lettura a alta voce, la comprensione del testo è già una questione diversa, ma la lettura, imparare a leggere ad alta voce non è correlato con l'intelligenza. Abbiamo bambini molto intelligenti che purtroppo, per motivi che oggi le neuroscienze hanno messo in evidenza, quindi per esempio per dei problemi nella famosa area corticale che abbiamo nominato prima, quella della forma visiva della parola, hanno delle difficoltà, ma sono intelligentissimi, quindi non abbassiamo l'autostima dei nostri bambini ritenendo che loro non abbiano le qualità per imparare. Bisogna, il dislessico ha bisogno di un altro modo di imparare che non poggi solo ed esclusivamente sulla lettura. Tra l'altro, Nicoletta, se mi permetti, proprio a questo proposito c'è una bellissima mail all'indirizzo di Cuore Denari da parte di Paola, una mamma di due dislessici, e vedendo il loro percorso scolastico ci racconta: ho scoperto di esserlo anch'io. I ragazzi dislessici, oltre alla non sempre adeguata preparazione e disponibilità degli insegnanti, devono vedersela anche con i genitori degli altri studenti, specie alle elementari, che considerano questi ragazzi una sorta di rallentamento ai progressi dei loro figli. Per i miei figli, dal liceo in poi, il percorso formativo è stato tutto in discesa. Si sono laureati entrambi in ingegneria con master successivo. Prima della scadenza dei tempi normali, la fatica iniziale li ha temperati. E poi Paola ringrazia il dottor Stella perché lo ha ascoltato molte volte. Sì, è stato più volte, non solamente naturalmente, ma tante volte ospite di Essere Benessere. E abbiamo, e c'è un'altra invece mail che ci arriva da Maria Teresa, che ci scrive che la figlia di 8 anni non riesce ad imparare la destra e la sinistra, magari è mancina come me e fa questa fatica io, e anche nella scrittura confonde il 2, il 5 e il 3, e poi la Q di quadro e la P di Palermo. I voti sono buoni, estremamente creativa, però anche difficoltà di concentrazione, l'ha portata dal neurologo e le è stato consigliato un percorso di ergoterapia. È la terapia giusta? E di che cosa si tratta, professore? Allora, naturalmente oggi si sprecano le terapie inventate. In questo caso, quando un bambino ha dei disturbi come quelli che sono stati evidenziati dalla signora con la bimba di 8 anni, che sono problemi di, come dire, specializzazione emisferica, perché non è vero che i mancini confondono la destra con la sinistra. Ah, sono solo io che sono gnucca. No, non volevo dire. Sì, questo, sì, ho sentito però, dal tono. No. Il mancino è ben lateralizzato come i destrimani, semplicemente è lateralizzato, diciamo, a rovescio, fra virgolette, no? In questi casi, tornando alla bambina, c'è una lateralizzazione incerta, e quindi c'è la necessità, più che di fare l'ergoterapia, di fare delle terapie specifiche, cioè o un lavoro sulle componenti visuospaziali e sulle abilità visuospaziali, e contemporaneamente un lavoro per rinforzare le componenti linguistiche. Le faccio un esempio che riguarda proprio la Q e la P. Una bambina di quarta elementare che di fronte alla parola pazientemente legge qualsiasi, perché scambia la Q con la P con la Q e quindi accede diversamente al lessico. Naturalmente poi si accorge che la parola qualsiasi non ha significato all'interno della frase e si autocorregge. Cioè vuol dire che la possibilità di recuperare sulla dislessia non poggia solo sulla correzione specifica di una difficoltà che può restare anche da adulto, cioè la difficoltà a confondere la destra con la sinistra e quindi la confusione nell'identificare alcune lettere può essere un meccanismo che non si modifica o che si modifica molto poco. Io devo provare a modificarlo, ma contemporaneamente usare delle strategie parallele in modo da avere, come dire, una multifattorialità che viene messa in gioco e quindi più possibilità di recupero. Quindi si può sintetizzare dicendo, professor Stella, che si nasce dislessici, si scopre di esserlo solo nel momento in cui impariamo a leggere e a scrivere, quindi non esiste nessuna possibilità per intercettare nei nostri bambini quando sono più piccoli, prima che imparino a leggere, un piccolo segnale che ci possa indirizzare sulla strada giusta? No, questa possibilità esiste. Questa possibilità esiste. Per esempio esiste la possibilità di, per esempio, il linguaggio è un buon predittore, ma non è l'unico. Sicuramente la incerta lateralizzazione emisferica, a questo proposito noi stiamo facendo una ricerca con gli inglesi proprio su questo, cioè? E cioè sui segni predittori che riguardano la lateralizzazione e le capacità di motricità fine nei bambini in età prescolare, perché anche questo è uno dei predittori. Ad esempio, ci faccia capire di più. Dunque, qui si tratta di un test un po' particolare, quindi non è difficile. No, no, no, ma per dare ai genitori un'indicazione, ecco, un occhio. No, ma l'indicazione è semplice, l'ha data la mamma stessa, no? È una bambina che per esempio si mette le scarpe a rovescio, sì. Persiste nel mettersi le scarpe a rovescio a 5 anni, cosa che i bambini non fanno più. Come mai? Come mai? Vuol dire che un meccanismo di elaborazione corticale della lateralizzazione non funziona, nonostante le mamme mettano delle indicazioni, facciano dei segni sulla scarpa, eccetera, ma il bambino non si ricorda se quel segno va da una parte o dall'altra. Certo, quindi professor Stella, ci sono anche dei segni che possono anticipare, possono orientare. Sì, ma non devono allarmare, no. Devono mettere i genitori diciamo nella condizione di prestare maggiore attenzione ai loro bambini e potenziare le loro esperienze. Abbiamo tanti ascoltatori in linea, sì, con noi, Debora. Sì, tu. Tra l'altro possiamo anche ritornare, se magari gli ascoltatori ci concederanno di farlo con le loro domande, perché no, al tema che ha anche proposto l'ascoltatrice prima della nostra pausa, cioè una diagnosi tardiva del problema di sua figlia, che credo sia stata fatta solo alla fine della scuola media, se non ricordo male, Nicoletta, sì, mi correggi. Vorrei sentire Marco da Roma. Marco, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto. Benvenuto. Grazie. Grazie. Ci dica tutto. Ma sì, io in realtà ascoltavo il professore con vivo interesse. Volevo rappresentare un po' il caso che mi riguarda, quello di mio figlio Francesco, a cui la diagnosi di dislessia è arrivata con un certo ritardo, nonostante fosse seguito da logopediste e da dottori che comunque sono esperti in queste tematiche. A 14 anni gli è stata diagnosticata la dislessia. Abbiamo quindi iniziato lì un percorso di sostegno per cercare di recuperare questo deficit di apprendimento e nello stesso tempo abbiamo cercato di ottenere quello che per legge spetta a questi ragazzi, cioè quell'indennità che è prevista dalla normativa. E siamo entrati in un mondo assolutamente allucinante, perché c'è bisogno di una certificazione, di una commissione specifica, no? All'INPS. Sì, ma il punto è che noi avevamo ovviamente tutte le certificazioni delle strutture pubbliche che davano e quindi attestavano sia questa situazione sia il diritto, eppure in sede di visita i medici che hanno visitato mio figlio gli hanno fatto i complimenti per quanto fosse educato, e come a dire quindi che con questa educazione suppliva a quel deficit di apprendimento e forse metteranno anche il bastone tra le ruote in prima istanza a ottenere questa indennità. L'ha ottenuta, Marco? No, siamo nelle more, però mi dicono che generalmente è uso da parte della pubblica amministrazione rigettare il primo tentativo ecco. E poi in un secondo di fronte però a un eventuale contesto. Intanto Francesco cresce, arriverà a 18 anni e chissà se questo sostegno lo prenderà, perché poi credo che con il raggiungimento della maggiore età si vanifichi, no, la possibilità di prenderlo. Esatto, no, ai ecco 18 anni poi si perde perché ecco, a 18 appunto anni. Ora il mio problema non è tanto pagargli le cure, perché fortunatamente me le posso permettere, però quello che trovo veramente aberrante è che ci sia una norma che prevede un'indennità di questo tipo e le persone semplici intanto non lo sanno, perché i medici non glielo dicono. Io l'ho saputo perché faccio giurista di mestiere, faccio l'avvocato, e bene o male mi sono informato e sono riuscito a saperlo. Ma le persone che non fanno il mio mestiere non sanno di questo diritto, i medici benissimo nessuno si informa. E quando Marco, lei tra l'altro oggi l'ha detto a cuore denari, per cui speriamo di aver dato questo suggerimento a tutte le famiglie in ascolto, no Nicoletta? Assolutamente. E intanto volevo sentire anche un contributo del professor Stella. Professore, ci sono la situazione. In effetti esiste, ci sono delle altre cose che le persone non sanno che esistono. La legge, per esempio, 170/10, dice ai genitori dei bambini dislessici che hanno diritto a ottenere il part-time al lavoro per poter aiutare i loro figli a casa. Naturalmente, come ha appena detto l'avvocato, il fatto che esista una legge non vuol dire che venga sempre applicata facilmente, perché molti genitori che conoscono questo diritto fanno la richiesta ma ottengono dalle loro aziende una risposta negativa. Però l'Associazione Italiana Dislessia esiste per questo, l'Associazione Italiana Dislessia ha fatto sì che si arrivasse ad una legge, e una delle battaglie che l'associazione vuol fare è proprio quella sulle indennità, in modo che sia effettivamente garantito, perché invece adesso succede che a macchia di leopardo in qualche regione lo danno, in altre. Quindi professor Stella, possiamo dire ai genitori che di indirizzarsi all'Associazione Italiana Dislessia per sostenere un po'? Sì, assolutamente sì, lì riceveranno anche una consulenza legale. Questo è un buon aiuto. Andiamo a Isernia, c'è Salvatore, poi a Milano che c'è Rosanna. Salvatore, sì. Buongiorno. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Senta, c'è una domanda per il dottor Stella. Sì. Io ho un nipotino di 6 anni che c'è da 3 anni frequenta un centro di logopedista. Sì. Tramite l'ASL. Adesso il dottore ha detto che deve terminare questo centro, diciamo, questa cura, è perché deve fare la prima elementare. Non è che avrà difficoltà e non riuscirà più a parlare bene, perché poi la prendersi non riesce neanche più a socializzare, per il fatto che non riesce a parlare, a scandire bene le paroline. Ma Salvatore, il bambino va da una logopedista per quale ragione? Perché non scandiva bene le parole, non riusciva a parlare bene, ha parlato anche in ritardo. Sì, professor Stella, sì. E questo ci permette anche un po' di definire i confini e il ruolo della logopedista. Sì. Io non credo che abbiano detto che la logopedia termina perché il bambino va in prima elementare, può darsi che la logopedia termina perché il bambino ha raggiunto dei risultati soddisfacenti dal punto di vista riabilitativo, perché invece un bambino che ha dei disturbi del linguaggio dopo i 4 anni ha l'80% di probabilità di incontrare delle difficoltà nell'apprendimento della lettoscrittura. Ovviamente per dei motivi molto semplici, la lettoscrittura riproduce il linguaggio verbale, e quindi se un bambino ha avuto una lentezza o una difficoltà nello sviluppo del linguaggio, purtroppo il meccanismo corticale che ha provocato questa lentezza si mostrerà inceppato anche nell'apprendimento della lettoscrittura, quindi è delle due, c'è ancora più bisogno della logopedista. Anzi, io in genere consiglio alla logopedista che nei 6 mesi che precedono l'ingresso alla scuola primaria deve insegnare a scrivere e a leggere al bambino. Per portarlo un po' avanti? Esatto, perché abbia meno difficoltà nell'impatto. E a proposito di bambini che arrivano a scuola, che sanno già leggere e scrivere, volevo citare un sms di un ascoltatore che vuole avere un parere del professor Stella riguardo proprio a questi bambini che a 4 anni sanno già leggere e scrivere. Sì, sanno riconoscere delle parole e sanno trascrivere le parole. Ci sono sicuramente dei bambini che sanno fare questo, perché il nostro sistema è semplice, soprattutto se hanno dei fratellini più grandi. Io naturalmente non invito gli insegnanti di scuola dell'infanzia ad accelerare così tanto questo processo, perché i bambini hanno bisogno di prendersi il loro tempo. Un bambino di 4 anni è importante che giochi. Sì, che faccia il bambino di 4 anni. Che faccia il bambino di 4 anni, certo. Si hanno una volta sola nella vita. Se per lui scrivere è un gioco, va benissimo, ma so che gli adulti spesso lo trasformano. Sì. In un soggetto da circo. Sì. Sai che volevo usare le stesse parole, mi sembravano un po' forti, ma vedo che il professor Stella è d'accordo con noi. Ha ragione. Io sono anziano e quindi mi permetto. Ma non è vero, non è vero. Nicoletta, ce la facciamo a sentire Rosanna? Magari direi di sì. Se Rosanna stringe, è così sintetica, il professor Stella. Grazie. Rosanna. Aspetta anche da un po'. Buongiorno. Buongiorno. Allora, velocemente, mia figlia ha 3 anni e 2 mesi. L'ho fatta giocare sul tappetino con le lettere, quindi le riconosce, la M, varie lettere le riconosce anche quando le vede fuori. Però parla sbagliando ancora molte lettere, anziché dormire, mommire, sono momella. Ma è piccina. E, i numeri non riesce, non sa la sequenza. No, ma non è piccina, ma 3 anni. Professor Stella, 3 anni. È un po' esigente questa mamma? No, ha ragione la mamma. Non è esigente, fa confusione, questo è diverso. I suoni sono una cosa e quindi per parlare le parole sono fatte di suoni e non di lettere. Non c'entrano niente le lettere. Quindi se la signora propone sul tappetino delle lettere perché spera che così la sua bambina parli in modo più chiaro, sta sbagliando, non serve a niente. È come, che ne so, per aiutare un bambino a imparare a camminare, mettergli i pattini da ghiaccio. Insomma, sì, no, ha reso l'idea. Insomma, ci ritorneremo magari sul caso di Rosanna, Nicoletta? Assolutamente, Rosanna. Intanto tutti gli ascoltatori che non hanno avuto spazio possono come sempre scriverci, perché Cuore Denari ha gli sportelli aperti. Intanto ringraziamo il professor Stella, che invitiamo a tornare a trovarci, perché il tempo corre sempre troppo quando c'è lei. Deborah, tu domani torni però. Domani torno, io devo ringraziare qua Valerio Rocchetti e Alessandro Chiappini che mi hanno aiutato qua in assistenza tecnica, mi hanno coccolato un po', ma io torno domani a Milano. E qua invece abbiamo Gianmarco Ferronato, eccoci qua, allora domani. Grazie, ciao.